ti ricordi di me? Io sono quello con Neo. Ci siamo visti a un semaforo rosso, ricordi, ricordi, vicino al Colosseo. Io non ti scordo più. Ci sei soltanto tu. Sei andata via con lui. Aveva un neo anche lui, ma era più grande il mio. Sei andata via, mio Dio. No, no, no. E adesso a chi le gole alte azzurre, i cortili senza fine, ma chi ti schiaccia le zanzare, chi ti scioglie le aspirine, ma siamo persi, non torno più, non torno più. Ci siamo persi, persi, persi. Ti ricordi di me? Sono quello sicuro. Ci siamo visti a una festa, ricordi? Fumavo, fumavo, fumavo, fumavo. Avevo un abito scuro. Non ti ricordi più? Ma mi guardasti tu, eh? Dove sei? Di, dove sei? E adesso a chi la do la villa al mare, lo champagne quasi francese? Dimmi chi ti fa i regali, chi ti pagherà le spese? Siamo persi e non torno più, non torno più. Ci siamo persi, persi, persi e non torno più, non torno più. Ti ricordi di me? Dico a te, dico a te, oh! Io sono quello arrabbiato! Sono arrabbiato, nervoso, incazzato con te! Che non m'hai mai guardato! Ma ti ritroverò! Vedrai se lo farò. Sei andata via con lui, lontano con lui, sulla moto con lui. Lo so che t'ho seguito. Sei andata via con lui, romantica con lui, lontano con lui. Allora m'hai tradito. E adesso a chi li do gli schiaffi ai baci e di chi mai sarò geloso? Oh no, oh no. Chi ci chiudo dentro casa, dimmi poi a chi chiedo scusa? Oh no, oh no. A te piaceva Battisti. Confesso pure a me, ma non ci siamo visti. Peccato, ho tutti i dischi. Dove sei? Di! Dove sei? Di! Dove sei? Ci siamo persi e non te.